signori. La licenza. Tavolo te. Ma beve tequila. Guaglione e guagliuncello, buonasera. Benvenuti in Fortezza Vecchia. Viva! Mettetevi comodi, fate schioccare il ghiaccio nei vostri bicchieri da cocktail. La musica associata al drink giusto suona ancora meglio. Concedetevi un sorso di martini, gustatevi i tempi moderni della lounge music. The moment I wake up, before I put on my makeup, makeup, I'm saying a little prayer for you. Noi siamo i loungeri. Oh yes. I protagonisti della serata. Sì, e loro sono Le Vartan. Oui. Oh, i musicisti della serata.